c'è amore, figuriamoci rispetto. Se lo vuoi, prova a fare il bulletto, è certo. Infami chi veste la divisa, ma poi stringiamo la mano a chi fa parte della malavita. Cosa spegni in un attimo, ti lavi la coscienza con il pane azimo. Perché no, ti chiamo killer, perché le cose non si fanno tanto per. Per chi voleva ripulirla come Borsellino e Falcone, ma